Listen to the hummingbird, whose wings you cannot see. Listen to the hummingbird. Don't listen to me. Listen to the butterfly, who stays but number three. Listen to the butterfly. Don't listen to me. Listen to the mind of God, which doesn't need to be. Listen to the mind of God. Don't listen to me. Listen to the hummingbird, whose wings you cannot see. Listen to the hummingbird. Don't listen to me. Ciao a tutti, questo era Leonard Cohen che come al solito ci ricorda di ascoltare. Io sono Lollo Cat e questo è Club Chimera, un programma radio dedicato all'ascolto, al suono, alla musica, all'immaginazione e a tutti i mondi che da queste pratiche vengono toccati anche tangenzialmente. Oggi in particolare sono qua con Lori e Chiara, a cui chiederò tra poco di salutarci, di presentarsi, eccetera, eccetera. E, prima però volevo fare una piccola introduzione. Oggi parliamo proprio di ascolto, di paesaggi, di territori e della possibilità o meno di rappresentare, di raccontare gli ambienti che ci circondano. Inizio con due suggestioni. Una è tratta dagli scritti di Borges e l'altro invece dal lavoro più accademico del biologo Jacob von Uexküll. Iniziamo da Borges, il quale riflette sulla possibilità di rappresentare. In uno scritto, un aforisma, un paradosso, chiamato La mappa dell'impero in scala 1 a 1, e tratto dal rigore della scienza, un frammento in un libro di frammenti chiamato Storia universale dell'infamia, Borges scrive: «In quell'impero, l'arte della cartografia giunse a una tal perfezione che la mappa di una sola provincia occupava tutta una città e la mappa dell'impero tutta una provincia. Col tempo, queste mappe smisurate non bastarono più. I collegi dei cartografi fecero una mappa dell'impero che aveva l'immensità dell'impero e coincideva perfettamente con esso. Ma le generazioni seguenti, meno portate allo studio della cartografia, pensarono che questa mappa enorme era inutile e non senza impietà l'abbandonarono alle inclemenze del sole e degli inverni. Nei deserti dell'Ovest rimangono lacerate rovine della mappa, abitate da animali e mendichi. In tutto il paese non c'è altra reliquia delle discipline geografiche». Quindi qua Borges sta provando il paradosso di rappresentare fedelmente uno a uno un qualcosa e ci sta dicendo: è impossibile, se vogliamo una mappa di Milano intera dobbiamo sostituire Milano con la mappa, che cosa ce ne facciamo? Qua Borges riflette su delle mappe come dei dispositivi di astrazione che quindi appiattiscono, rendono con uno sguardo tecnico il territorio in cui ci troviamo. Al, diciamo, polo opposto dello spettro della rappresentazione o della vita, troviamo invece il lavoro di Uexküll, un biologo, uno zoologo, che è stato il primo a introdurre il termine di Umwelt, cioè di ambiente sensoriale, del mondo che circonda un organismo. il lavoro che il suo lavoro fa nascere tutta una disciplina della biosemiotica, quindi del conferimento di significato a seconda della specie che vive un determinato ambiente. L'umwelt di cui parla Uxkull è il mio universo soggettivo che io esperisco tramite i sensi quando mi muovo in un ambiente. È quindi un universo che dipende da specie a specie. Lui, lavorando molto con gli animali, si rende conto di quanto l'essere umano percepisca, viva in modo completamente diverso da altri animali. Fa l'esempio della zecca che usa solo tre sensi. Il primo senso è l'odore, con il quale riesce a individuare le prede. Grazie a questo odore, nel momento giusto si lascia cadere e per finire appunto su un animale che sta passando sotto al ramo in cui la zecca si trova, e con un organo sensibile alla temperatura capisce se effettivamente ha avuto fortuna ed è caduta o meno su un animale. Il terzo senso che usa è quello del tatto, per conficcarsi dentro alla pelle nuda di quell'animale. Qua non siamo dentro a mappe tecniche, ma siamo dentro a esperienze di vita estremamente soggettive. E la domanda che ci siamo poste per preparare questa puntata, in qualche modo, è: come facciamo a combinare le due cose? Come facciamo a raccontare quello che viviamo, quello che speriamo, in un modo che non sia tecnico, che non sia così soggettivo da non poter essere condiviso, in un modo che tenga davvero in conto dell'esperienza di vita che facciamo nel momento in cui viviamo ed esploriamo il mondo. Sono qua con due persone che hanno risposto a queste domande camminando e ascoltando, che hanno esplorato il mondo camminando e ascoltando in un modo o nell'altro. Adesso spero di non mettere l'imbarazzo, quindi mi fermo e chiedo a queste due persone, a Chiara e a Lori, se vogliono iniziare a raccontarci qualsiasi cosa, per poi iniziare nel vivo degli argomenti. Ciao, sono Chiara. Vabbè, cominciamo con le presentazioni, che è sempre un momento critico per me, perché mi è sempre stato difficile rinchiudermi all'interno di una definizione, questo perché ho sempre vissuto la vita, o comunque anche l'arte, come un percorso, e quindi potrei dire, non so, sono un'artista visiva, lavoro col digitale, sono una scultrice, una ricercatrice o semplicemente una persona curiosa. Credo che dentro di noi coesistono un'infinità di mondi, e quindi a questa, alla domanda presentatevi, rispondo che sono una persona che sta creando la propria strada e che crede che l'arte sia un veicolo per costruire, creare delle nuove prospettive partecipate e da condividere. Grazie. Ciao, io sono Lori. Sì, è una domanda ferocemente complicata quella di presentarsi. E comunque condivido tutto quello che ha detto Chiara. Per quanto mi riguarda, ho un background da architetto, cioè ho una formazione di architetto, lavoro anche come tale. Come dire, per me le tra virgolette pratiche artistiche sono un modo per esprimermi, per collaborare, per riflettere su dei temi che mi appassionano. Tra questi c'è sicuramente quello delle nature urbane, in qualche modo di risulta, come prodotto di risulta da processi urbani contemporanei che caratterizzano la città neoliberale post-fordista. Grazie, ci torniamo subito. Intanto, mentre parlavano Chiara e Lori, Dovevo farlo già prima in introduzione e mi sono dimenticato. Ho fatto partire la prima traccia di ascolto di oggi, che è Sound Patterns di Pauline Oliveros, che è una compositrice che anche è una teorica anche molto importante, perché lei ha lavorato molto tra teoria e pratica sull'ascolto, e molti dei suoi lavori partono proprio da lavori di gruppo in cui fa fare esperimenti con i suoni e con l'ascolto alle persone, e poi tramite la registrazione crea le proprie tracce. E questa è una sua traccia che appunto proprio lavora non tanto sulle musiche, ma molto sui suoni. Sui suoni ai quali ci apriamo per le conversazioni di oggi. Torniamo nel vivo del tema. Lori ha parlato di nature urbane. Oggi si parla di ascolto e di cammino, come appunto, come dicevamo prima, strumenti di conoscenza, di esperienza e di tracciamento dell'ambiente e del territorio. Prima ancora di parlare quindi dell'ascolto e dei suoni, iniziamo a parlare del cammino e come possa essere una pratica personale o una pratica di ricerca o una pratica artistica, e come appunto il camminare ha rappresentato tutte queste sfaccettature nella vostra esperienza. Allora, voglio rispondere a questa domanda partendo dal proprio l'inizio di quando, cioè penso ovviamente allora era in modo inconscio di essermi cominciata a interessare del cammino, che è quando appunto passavo tutte le estati in montagna con i miei nonni, e praticamente mio nonno ogni anno ai miei fratelli raccontava come per lui era il cammino in montagna, e ci diceva che bisognava partire e arrivare alla meta sempre con lo stesso passo. Diciamo che con gli anni ho rielaborato questo insegnamento, che è stato in realtà veramente importante, in cui, cioè, questa camminata di mio nonno era quasi diventava un rito, un atto di trasformazione, era un passo costante, passo dopo passo raggiungevi la vetta, la cima, e quindi era proprio cioè iniziavi il cammino ed eri una persona, e alla fine eri qualcosa di diverso, era proprio un cambiamento, ed era non solo percorrere uno spazio fisico, ma anche percorrere uno spazio interiore. E poi è interessante come la pratica del cammino vada a indagare il dettaglio, perché per esempio, non so, una visione aerea oppure anche, non so, su un treno, comunque è sempre una visione molto veloce, invece col cammino hai la possibilità di entrare, accorgerti delle cose e anche selezionare e capire chi sei, selezionando quello che ti piace, quello che non ti piace, e imparare dall'esperienza appunto del cammino, e imparare a conoscere il mondo e te stesso. Questa cosa del dettaglio mi fa venire in mente un aneddoto divertente di un cammino che abbiamo fatto insieme, una passeggiata in Liguria, in cui una certa c'erano delle costruzioni per tenere le frane, cioè bellissime, per tenere molto perché non cadesse, e tu che hai uno sguardo tecnico molto più raffinato del mio, avevi notato i ganci di queste costruzioni che io ero lì così, ah, che bello, che belli gli uccellini, che bella la natura, che belli i turisti. Sì, e sì. Mi ha fatto spisciare come il dettaglio invece di interesse per te era stato proprio il gancio tecnico. Sì, perché non so, proprio... io non ho neanche le parole per descriverlo. Sì, era anche forme che trovi in giro e che diventano, non lo so, ti cambiano, ti piacciono, ma così, non lo so, è proprio... Magari il giorno prima non ti piacevano nemmeno, poi magari il giorno dopo scopri che c'è qualcosa di più in quella... Non so, però era stato un bel momento. Sì, anche per me il cammino nasce un po' così, come modo di lasciarsi andare, perdersi, soprattutto nella città, devo dire. Ho sempre fatto lunghe camminate per esplorare semplicemente i quartieri, le architetture, i luoghi, senza tenere traccia del tempo, facendomi guidare, diciamo, dagli stimoli che incontravo. E, senza dubbio, però, poi questa pratica ha assunto un nuovo significato, un nuovo valore. Durante un master in Environmental Humanities che ho frequentato un paio d'anni fa a Roma 3, dove ho avuto modo di sperimentare questa pratica con persone che lo fanno da tempo, e poi ho deciso di portare come lavoro finale per questo master un'esplorazione sul territorio di un fiume, ovvero il fiume Lambro, che passa a Milano. Inizialmente un po' appunto perché durante queste camminate mi sono imbattuto in questo fiume e un po' ho pensato, cavoli, a Milano, cioè nessuno associa Milano ai fiumi, tendenzialmente. Non fa parte del senso comune il fatto che a Milano passino dei fiumi, il Lambro e il Seveso. E questo secondo me è stato, cioè, lo trovo comunque molto interessante, ecco. Quindi da lì ho deciso di fare un po' questo lavoro di ricerca su questo territorio del fiume, appunto percorrendolo a piedi e ascoltando i diversi paesaggi sonori che si snocciolano lungo il corso del fiume. Quindi appunto nel tuo lavoro, che è partito come un'esplorazione urbana di ricerca, a una certa ti sei resa conto di quanto il senso dell'ascolto potesse essere importante. Ed è proprio lì, è sull'ascolto, sul suono, che le nostre ricerche di tutte e tre si sono coinvolgiate. Quindi entriamo adesso nel vivo, appunto, del suono, per parlare di perché è importante ascoltare, perché diventa anzi alle volte ancora più importante che guardare nel momento in cui camminiamo, o in generale nel momento in cui riflettiamo sull'esperienza, come dicevamo prima, sugli ambienti vissuti e su come possiamo raccontare ed esperire questi ambienti vissuti. Nel farlo inizio a mettere una traccia di un lavoro non tanto di musica ma di sound art, quindi di ricerca di un paesaggio attraverso il suono. Si tratta di un lavoro di Fernando Godoy, artista cileno, registrato interamente all'interno di miniere di rame, in Cile, appunto, che è uno dei maggiori produttori di rame al mondo, poi assemblato ma non manipolato, quindi tutte le registrazioni che Godoy ha fatto sono state poi montate da lui in questo lavoro qua, che dura una mezz'oretta. In realtà noi ascoltiamo qualche minuto. tante cose e non avrei un momento univoco per capire, per esprimere, cioè per dire qual è stato appunto quel momento in cui ho detto: ah, il suono. È stato un veicolo ecologico per fare arte, per creare delle installazioni sonore. È stato un modo per riflettere sullo spazio, su come esso fosse il suono molto creasse architetture, creasse delle architetture con dei confini labili, ed è stato soprattutto un atto rivoluzionario, nel senso che al momento, vivendo in una società che caotica, che iperveloce, è stato proprio l'ascolto, il mettersi in ascolto, il fermarsi, è secondo me un atto di rivoluzione. Poi lo trovo interessantissimo perché il suono appunto è associato al movimento e in tante genesi di popoli arcaici il suono era l'inizio della creazione del mondo, della creazione della terra, dell'uomo, e nel momento in cui c'era un suono succedeva qualcosa, e quindi è sempre questa cosa, mi ha affascinato sempre tantissimo. E questo sì, mi ricollego a quanto diceva Chiara anche prima sul camminare, in particolare su il modo in cui l'attenzione vaga liberamente tra scale diverse, vicino, lontano, grande, piccolo, per dire che appunto ascoltare in qualche modo crea delle microecologie localizzate, secondo me, perché appunto per ascoltare tendenzialmente bisogna rallentare, e rallentando ci si rende conto che lo spettro percettivo si amplia tantissimo, e ci accorgiamo di tutta una serie di suoni, ma anche appunto di immagini, a cui tendenzialmente non avremmo fatto caso. E questo in qualche modo è anche cogliere l'invito di quelle pensatrici e filosofe che ci invitano a ampliare la platea delle soggettività da includere nelle teorie politiche contemporanee, oltre all'umano. Ne approfitto di questo momento di pausa per passare anche un'altra traccia, altre due anzi, che mixerò tra di loro per far vedere la diversità di questo lavoro, che è un altro lavoro che si focalizza proprio sul suono, per andare a capire e conoscere un'ecologia, quindi l'ecologia di un ambiente, e cioè dell'ambiente di Chernobyl. Questo è un lavoro di Cusack, ci vuoi raccontare qualcosina a riguardo? Dunque sì, è un lavoro di Peter Cusack, intitolato Sounds from Dangerous Places, quindi suoni da posti pericolosi. Ed è un lavoro registrato appunto a Chernobyl, dopo chiaramente il disastro di Chernobyl. Questa traccia in particolare fu registrata da Cusack nei pressi di alcuni tralicci dell'alta tensione, che lui si aspettava legittimamente che non fossero più in uso. Eppure, insieme al suono di questo strumento che rileva le radiazioni, inizia a sentire anche lo scricchiolio tipico dei cavi dell'alta tensione quando sono in attività, e quindi si chiede come mai ci fosse elettricità che scorreva in quei cavi nel momento in cui la centrale non era più attiva, e da qui scopre che il flusso di corrente in realtà andava verso la centrale per alimentare tutte le strutture e le strumentazioni che servono per mantenere sotto controllo il livello di radiazioni. E, un'altra cosa di cui abbiamo parlato mentre preparavamo questa puntata è il riconoscimento della differenza tra questo lavoro e invece quello che abbiamo ascoltato prima di Godoy, e quindi quanto si può fare in modo diverso un lavoro sul suono e sull'ascolto nel momento in cui, se non sbaglio, Cusack fa una serie di tracce tipo album così come le registrate, senza una manipolazione del suono successiva. Sì, giusto? Sì, sì, sì, esatto. Il lavoro di Cusack, che viene chiamato anche Sonic Journalism, consiste in un disco, insomma, in un set di tracce di pochi minuti ciascuna messe in successione, dove ogni traccia, anche grazie al titolo, ci racconta qualcosa di abbastanza specifico. Il lavoro di Godoy invece è prettamente, oddio, ci sono delle parti che sono descrittive, in cui sentiamo delle cose che possiamo anche immaginare che cosa sono, ma ci sono intere porzioni di suoni dal carattere appunto puramente allusivo, che ci portano in qualche modo in quel luogo, ci raccontano la materialità di quel luogo lì senza darci un'indicazione precisa di dove sono state registrate o come. Ed è anche un lavoro poi più questo di Cusack, simile, giusto, se non sbaglio, a quello che invece hai fatto tu sull'Ambro, nel senso che non c'è stata tanta manipolazione successiva, ma è proprio un mostrare come tu abbia conosciuto l'ambiente dell'Ambro attraverso l'ascolto. Sì, sì, sì, sì, esatto. Anch'io ho prodotto un lavoro, diciamo, simile, mettendo in successione una serie di registrazioni raccolte appunto lungo lo scorrere del fiume una dopo l'altra, per raccontare i diversi tipi di paesaggi che comunque sorprendentemente si incontrano camminando lungo un fiume che scorre in città. Nel farlo, quello che ci siamo detti, il termine che abbiamo trovato è stato quello di cartografia esperienziale. Quindi qualcosa che sta un po' in mezzo ai due poli di cui si parlava prima, della mappa tecnica da una parte e invece l'esperienza di un universo assolutamente soggettivo dall'altra, ma appunto una cartografia che cerca di raccontare la città attraverso l'esperienza corporea di chi l'ha vissuta. Come può funzionare tramite l'ascolto la costruzione di questa cartografia? Cioè, come l'ascolto si fa uno strumento di conoscenza e quali cose ci mostra che invece una mappa tecnica, quella alla Borges 1-1 dall'alto, Google Maps, non ci può raccontare? Ma io intanto per avere un po' di sottofondo continuo a mettere altre tracce alternando un po' il lavoro di Cusack e il lavoro invece di Lori sull'Ambro a pochi chilometri da qua. Diciamo che in generale e anche in maniera abbastanza intuitiva i suoni che ci circondano contribuiscono a definire i modi in cui diamo senso alle cose, agli spazi, alle situazioni, ma basta pensare a una strada molto rumorosa o a una chiesa silenziosa come quella dove siamo stati poco fa con la camminata sonora. Ci costringono a porre l'attenzione su o a isolarci in modo diverso e in qualche modo ci lasciano addosso delle sensazioni. Se poniamo un po' di attenzione su questi suoni, questi ci possono aiutare a in qualche modo a svelare le storie dietro a questi luoghi, agli spazi, e le condizioni che le sottendono. E, diciamo che l'aspetto poi che in qualche modo a me interessa è quello di capire in che modo le componenti del paesaggio sonoro sono prodotte da dei sistemi di valore, e in particolare quelli relativi alle pratiche di espropriazione, riterritorializzazione, occupazione del territorio e cioè con l'obiettivo di accumulazione del capitale, appunto come dicevo prima, essendo che un po' per il mio background di studi, un po' per la città dove ci troviamo, sì, sono un po' questi i temi che mi stanno a cuore. Anche le zone che frequenti attraverso le tue ricerche. Mi viene da dire, cioè, ho partecipato a diverse passeggiate tue e è interessante perché la città in cui ci troviamo si presenta come una città vetrina, che non è affatto, perché invece c'è tutta una situazione urbana, post-urbana, urbana rurale, che è il punto più interessante di ricerca urbana. Sì, è quello che ci porti spesso a... È quello dove poi vengono un po' alla luce i processi che portano il prodotto in vetrina. Cioè dietro al prodotto in vetrina c'è sempre un processo che sta tendenzialmente nascosto, ma neanche poi così tanto nascosto, basta andare un po' a cercarlo. E il suono in qualche modo ci consente di... cioè inizia a diventare possibile sentire questi processi, e più l'ascoltiamo più emergono le asimmetrie che caratterizzano la città contemporanea. C'è una traccia del tuo lavoro in particolare che ci racconta un incontro che hai avuto, dal quale possiamo iniziare a parlare di relazionalità e quindi di dinamiche tra soggettività che avvengono in un ambiente e che possono spesso essere ascoltate. Vuoi raccontarcela? Lasciarci, magari aspettiamo un attimo, ascoltiamo un minutino e poi ci racconti di che traccia ti parla. Mi trovavo in questo campo tra la tangenziale est, l'aeroporto di Linate e un quartiere remoto e totalmente isolato e tagliato fuori dalla città. Stavo, come spesso accade, fermo in un punto a guardarmi intorno, ascoltare, e da un gruppetto di cespugli poco lontano spunta fuori una persona con un trolley che in maniera concitata cammina verso di me. E vabbè, poi più in là parleremo dell'aspetto, come dire, emotivo del camminare anche spesso da solo in zone che appunto sono un po' remote e si portano dietro, hanno tutto un portato di significato legato al degrado, alla paura. Comunque questa persona mi raggiunge, io noto che è in evidente stato di alterazione psicofisica da sostanze, credo crack, insomma non lo so, comunque inizia a interagire con me e mi racconta per tre quarti d'ora praticamente la storia della sua vita, dallo spaccio e gli arresti di quando era minorenne, alle case popolari, le occupazioni, tutta una serie di cose, come dire, illegali, di attività illegali che ha svolto durante la vita. E questo incontro per me è stato un po' uno spartiacque durante questo lavoro, perché in qualche modo mi ha fatto rendere conto, cioè ho proprio visualizzato la profonda spaccatura che c'era tra il modo in cui io stavo semplicemente attraversando quello spazio e il modo in cui invece questa persona lo stava vivendo, visto che poi appunto mi ha raccontato che in questo luogo è un luogo di ritrovo anche con una certa organizzazione dietro, per il consumo e lo smercio di sostanze stupefacenti, e quindi sì, ecco, l'ascolto, a volte anche ascoltare le altre persone che incontri in maniera totalmente inaspettata, che in qualche modo, facendoti da specchio, almeno facendomi da specchio, questa persona mi ha fatto rendere conto della postura che, in quanto tra virgolette ricercatore, artista, eccetera, stavo assumendo nell'attraversare quel luogo lì. Postura che caratterizza sempre qualsiasi cammino, e quindi oltre all'ascolto, anche proprio già solo il fatto di esserti messo in cammino in spazi anche altri o non altri, è un qualcosa che ti fa riflettere sulla tua postura, ti fa incontrare, ti fa anche poi creare appunto una cartografia di dove sei stata attraverso questa tua esperienza di movimento in quel luogo, non attraverso uno sguardo tecnico dall'alto. Ma sulla stessa linea, diciamo, di esperienze vissute più sul cammino, questa mi sono ricordata di quest'estate, quando sono stata in Mozambico, che ho fatto questa riflessione proprio su come il cammino ludico fosse una cosa prettamente europea. Oltretutto, nello stesso periodo stavo anche leggendo un libro che non c'entrava col cammino, ma c'entrava, che era la storia di questa persona che dalla Malesia si era trasferita in Norvegia e che aveva scoperto che in Norvegia esisteva proprio il cammino della domenica. Ed era stranita dal fatto, perché in Malesia questo non succedeva, perché essendoci la foresta pluviale, nel senso, tu non è che esci e cominci a camminare nella foresta. E lei diceva, sì, è una cosa che ho conosciuto qui, perché appunto se in Malesia avessi voluto fare questa cosa avrei dovuto munirmi di antizanzare. E stavo leggendo questo libro e intanto vivendo questa esperienza in Mozambico, in cui vedevo che quando noi bianchi ci mettevamo a camminare per strada, anche in paesini in cui non c'era nessuno, ci tipo ridevano, ci guardavano e ridevano, e io dicevo, chissà perché ridono. E effettivamente poi ho notato che, ovviamente i bianchi sono considerati come ricchi, e i ricchi mozambicani o comunque non vanno in giro camminando, e quindi quanto questo in realtà il cammino sia proprio ti definisce la tua classe sociale, perché lì i poveri devono camminare per forza, cioè non è che possono, per raggiungere qualsiasi posto devono camminare, oppure riuscire a farsi dare un passaggio da qualcuno che ha una macchina. Oltretutto sono macchine magari piene di 30-40 persone sullo stesso pick-up, e quindi c'è proprio questo staccamento di chi cammina e chi non cammina. Chi non cammina è il ricco. E sulla stessa, diciamo, del cammino ludico o delle cartografie, vorrei riconnettermi alle derive psicogeografiche. dei situazionisti, che praticamente loro legavano, quello che volevano fare loro era, vabbè, i situazionisti sono una corrente filosofica, sociologica, nata negli anni metà Novecento, e quello che volevano fare loro tramite il cammino e tramite le derive psicogeografiche e quindi anche la costruzione di mappe che ricostruivano le loro camminate, le loro derive, volevano andare a modificare il modo con cui le persone vivevano la città. Volevano creare una società più libera in cui praticamente le loro derive avevano delle regole prima di tutto, perché infatti loro si collegavano anche al fatto del gioco, del cammino ludico, nel senso che il gioco ti portava ad essere più libero, perché nel momento in cui tu decidi di giocare dai delle tue regole, quindi esci dalle regole della società. Allora era appunto, loro volevano andare contro la società borghese. E quindi è interessante perché poi creavano tutte queste mappe in cui c'erano queste isole di Parigi, tendenzialmente, perché è un movimento nato in Francia, e dove c'erano appunto queste mappe, che erano alcune volte anche delle mappe per turisti, a isole e con tantissime frecce. E quindi tu, nel momento in cui decidevi di seguire questa mappa, in realtà era impossibile seguirla, ma era per dirti... vivi la tua esperienza, vivi la cioè scegli la strada che vuoi percorrere in base non a quello che conosci, ma in base a quello che sei, a cosa ti attrae, a cosa non ti attrae. E quindi niente, mi è venuto, cioè era un bel collegamento, perché perché forse bisogna appunto mettersi in movimento, seguire queste pulsioni e crearsi la propria cartografia all'interno del mondo e conoscere anche quello che si è. Che è anche una cosa molto divertente, mettersi in esplorazione. Sì, appunto, quando dicevi di regole, per esempio pensando prima, giro due volte a destra e una a sinistra, da qua alle prossime due ore. Vai in una città che non conosci, sì. La prima a destra, la seconda a destra, la terza a sinistra, e vai avanti così. Sì. E possono nascere cose che non sarebbero nate altrimenti. E potresti scoprire dei posti che probabilmente non avresti scoperto. Mm-hmm. Sì. Addirittura mi viene in mente, ora purtroppo non ricordo il nome, ma questo artista situazionista che a un certo punto esplorò, mi sembra, Parigi, seguendo pedissequamente le indicazioni su una mappa di Londra. E quindi è chiaramente impossibilitato. Va bene. Quindi, se prima abbiamo parlato anche della conoscenza relazionale e sociopolitica di un ambiente, che si può fare attraverso l'esperienza, e nel particolare noi parliamo dell'ascolto, perché è il focus di questo programma, ma ovviamente poi l'idea è quella dell'esperienza, del cammino, del movimento, dell'esserci. Comunque dicevo, se una conoscenza in più rispetto a quella della mappa tecnica è quella relativa alla relazionalità, alla sociopolitica, l'altra può essere invece quella più relativa a una componente affettiva, emotiva, corporea, a un sto bene, sto male. A un ci sono io, ci sono altre sensazioni, altri stimoli che con me interagiscono e che ci fanno stare appunto bene o male, affettivamente, emotivamente. Iniziamo ad ascoltare un altro piccolo estratto e poi vi lascio la parola per eventuali riflessioni. C'è nessuno? Nessuno? C'è nessuno? Questa è una piccola traccia di Lucilla Lucio Barchetta che in qualche modo accompagna una sua ricerca, che è stata la sua tesi di dottorato, poi diventata un libro intitolato La rivolta del verde, che si occupa del corso di due fiumi di Torino, e appunto andando a sviscerare il tema del degrado, tra le altre cose. E un concetto che utilizza molto è quello di atmosfere, che secondo me può essere utile anche in riferimento all'ascolto, perché in qualche modo l'ascolto, il camminare in ascolto, in quanto pratica, come diceva anche prima, come dicevi tu Lollo, situata spazio-temporalmente, vissuta, incarnata, cioè si fa mettendo letteralmente il corpo nello spazio, tiene insieme sia aspetti affettivi che e corporei, e che discorsivi e razionali. Il corpo è influenzato dallo spazio in cui si trova, da quello che vediamo, da quello che sentiamo, dalle emozioni che percepiamo, dai desideri che ci attraversano, dalle paure. Allo stesso modo lo spazio è influenzato dai corpi che lo attraversano. Quindi se noi camminiamo su un sentiero, la ghiaia scricchiolerà sotto i piedi, i grilli e gli uccelli si allontaneranno, le persone si metteranno sull'attenti oppure no, a seconda del tipo di persone che sono, delle attività che stanno svolgendo. Allo stesso tempo noi ci facciamo costantemente un'opinione, ci costruiamo costantemente un'interpretazione, una cornice di senso rispetto all'esperienza che stiamo vivendo. L'ascolto in qualche modo e il suono ci aiutano a tenere insieme questi due aspetti senza necessità di riconciliazione, e anzi tenendo a mente il fatto che sono aspetti che si influenzano vicendevolmente, che si influenzano molto vicendevolmente, perché tutti degli aspetti ideologici influenzano quello che proviamo quando attraversiamo uno spazio, nonché tutte le storie personali, elementi psicologici. Una persona che attraversa un luogo in rovina può esserne attratto o disgustato a seconda del proprio posizionamento politico, del tipo di corpo che è, pensiamo a delle questioni di genere, di razza. E allo stesso tempo, questo volevo dire. Una riflessione. Quasi non dico finale, però quasi uno step successivo di cui mi interessa parlare è come queste componenti affettive, questo appunto essere alle volte disgustata, alle volte impaurita, alle volte eccitata, alle volte semplicemente stare bene, stare male, credo che sia proprio quello che si fa nel momento in cui, più che ricerca, si cerca di trasformare gli stimoli in pratiche artistiche, che credo partano sempre da un ascolto, che sia un ascolto con l'orecchio o un ascolto con gli occhi, se si tratta di pittura, non so come dire, però partono sempre comunque da una ricezione, da una percezione dell'ambiente circostante, per arrivare poi a plasmare, a ricostruire, a riorganizzare il materiale primario e andare a riproporlo in forma nuova, che ce lo mostra di nuovo. È un po' il lavoro che ha fatto un artista, un musicista, un compositore che è partito proprio dal tipo di ascolto di cui stiamo parlando oggi, quindi l'ascolto dell'ambiente, in particolare l'ascolto degli uccelli. Quindi iniziamo ad ascoltare un estratto del il secondo pezzo del primo libro del catalogo degli uccelli di Messiaen, dedicato a Le Loriot. Vorrei leggere una sua frase in merito a questa composizione. Per me l'unica musica esistita è sempre stata nei rumori della natura, l'armonia del vento tra gli alberi, il ritmo delle onde del mare, il timbro delle gocce della pioggia, dei rami rotti, delle pietre che cozzano, delle diverse grida d'animale. Sono per me la musica. Questa ovviamente è sua. E vorrei parlare di una storia, di una favola, in merito che mette in contrasto il frastuono al silenzio totale. E questa storia è scritta da Edgar Allan Poe e si chiama Silenzio, e originariamente si chiamava Siope, a fable. Siope è in greco, significa appunto silenzio, e in questa storia Edgar Allan Poe incontra il demonio che gli racconta appunto questa storia, questa esperienza che ha vissuto, in cui appunto lui si trovava in Libia vicino al fiume Zaire, e in questa landa desolata, sempre in movimento, sempre senza mai silenzio, e appunto parla, è una favola che è molto, si ripete, continua a dire le stesse parole una dopo l'altra, è come se creassi un eco, e comincia descrivendo appunto questa landa desolata, che appunto parla di questo fiume, che il frastuono di questo fiume, parla di queste ninfee, o non erano ninfee forse? Sì, erano ninfee. Di queste ninfee che appunto sospiravano in continuazione, e di questi alberi che accerchiavano tutta questo deserto di ninfee, ed erano alberi primitivi, e le loro fronde continuavano a muoversi, ma non c'era vento, e ai piedi di questi alberi c'erano queste erbe, cespugli, anche loro primitivi, preistorici, che si contorcevano, e continua a ripetere queste parole: contorcevano, frastuono. È molto ripetitiva e ti dà proprio l'impressione di essere immerso in questa natura che continua a muoversi e continua a risuonare. E il demonio appunto si trovava lì e a un certo punto vede questa roccia al centro di questa di questo, diciamo, deserto di suoni, e sopra questa roccia scorge un uomo, e quest'uomo era immobile e impaurito allo stesso tempo, ma si vedeva nel suo viso che era stanco di tutta l'umanità e se ne voleva restare in solitudine in mezzo a questa infinità di suoni fastidiosi. E allora il demonio, che ovviamente non è, era cattivo, decide di infastidirlo, di vedere, cioè di metterlo alla prova per capire quanto effettivamente se ne volesse stare lontano dall'umanità. E allora chiama degli ippopotami che arrivano, si mettono sotto questa roccia e cominciano a urlare. E però l'uomo, per quanto stesse anche cadendo la notte, resta immobile, fermo e tremante. E anche questa frase è ripetuta tantissime volte, questo tremare dell'uomo, questa immobilità. Allora il demonio decide ancora una volta di far arrivare un temporale fortissimo, quindi il fiume straripava, le ninfe urlavano, gli alberi si muovevano, il vento questa volta è entrato anche lui all'interno della storia, ma l'uomo restava sempre immobile. E allora alla fine decide di imporre a tutta questa landa desolata il silenzio assoluto, e tutto si ferma, e l'uomo a questo punto, dall'alto della sua roccia, si desta impauritissimo e scappa lontano. E questa mi è molto piaciuta questa storia. È anche molto bello come può proprio descrivere quasi una cartografia esperienziale di questo luogo attraverso i suoni del luogo. Sì. Ed è molto forte alla fine, quando l'unica cosa che può davvero spaventare quest'uomo sia l'assenza di movimento. Quindi quanto che è un'assenza che nel momento in cui esperisci non esiste mai, perché c'è sempre quel movimento, quell'esperienza, quell'ascolto continuo e costante. E quindi, tornando, direi di chiudere. Vi chiedo magari delle ultime riflessioni su come queste che noi abbiamo chiamato cartografie esperienziali, quindi questi racconti, ricerche o racconti artistici di quello che viene vissuto tramite l'esperienza, possano aggiungere o magari anche togliere rispetto invece a delle mappe tecniche, al silenzio, all'astrazione delle mappe tecniche, che ti danno un sacco di dettagli importanti per magari per fare, per produrre, per cambiare alcune cose, ma non tanto per capire, per sentire un ambiente, un territorio, un veld, appunto, un ambiente sensoriale che ci circonda. Ma dunque, io quando penso alle mappe tecniche penso per esempio ai PGT, ai piani di governo del territorio, a tutti quegli strumenti urbanistici che servono a regolamentare gli interventi sul territorio. Chiaramente la redazione di queste mappe è tutta politica, perché si sceglie che cosa rappresentare e come, e queste mappe poi determinano che cosa si può fare in un luogo e che cosa no. Diciamo che un altro tipo di mappa, un altro tipo di cartografia ci consente di complessificare un po' le narrazioni. Per esempio, un altro aneddoto, del lavoro sull'Ambro fu quando incontrai questo signore anziano che stava raccogliendo delle rose in un ex in quello che rimaneva di un orto spontaneo, informale, che in realtà a ben vedere tutto il corso del fiume Lambro in città era costeggiato da orti informali costruiti tra la riva del fiume e l'insediamento urbano vero e proprio, ovvero in questa terra di mezzo che appunto tendenzialmente viene lasciata libera, ma non è mai stata disegnata o costruita in maniera specifica. Ormai ne rimangono pochissimi, e appunto questo signore mi raccontò che appunto una volta ce n'erano molti e che lui ormai da anni andava lì in qualsiasi stagione per raccogliere i frutti di questo orto, che continua comunque a dare i suoi frutti perché le piante sono rimaste, dalle rose, le albicocche, verdure di ogni tipo. Tuttavia oggi appunto rimane solo questo triangolino di spazio ad orto, tutto il resto è stato eradicato e trasformato in una sorta di parchetto con più obiettivi, tutti legati appunto alla cartografia ufficiale, ovvero è una zona a rischio idrogeologico, quindi è una zona soggetta ad alluvioni, cosa che comunque peraltro deriva essa stessa dalla concezione del fiume come linea su una mappa, perché a ben vedere il fiume non è mai una linea disegnata su una mappa, ma è un territorio, una porzione di suolo che in maniera variabile viene occupata dall'acqua. In momenti di piena è più largo, in momenti di magra è più piccolo, e comunque il percorso varia nel tempo. E però appunto classificare questo terreno come soggetto ad alto rischio di inondazione legittima tutta una serie di operazioni, tipo sbarazzarsi di qualsiasi tipo di costruzione informale, perché lì non deve esserci niente perché è pericoloso, che da un certo punto di vista è anche legittimo, come dire. Questa cosa poi ha consentito anche di costruire una serie di impianti idrici di produzione di energia idroelettrica, quindi anche una questione di capitalizzare questo flusso di acqua, e chiaramente una questione tutta politica rispetto al degrado che queste baracche, l'atmosfera di degrado tra virgolette che queste baracche generavano, soprattutto in relazione a tutta una serie di nuovi insediamenti, di nuove costruzioni, nuovi sviluppi immobiliari che stanno venendo ultimati negli ultimi anni in queste zone. Un'ulteriore considerazione, per esempio, su questo audio che stiamo ascoltando, che abbiamo registrato con Lollo all'interno di un edificio abbandonato, anche questo situato nei pressi del fiume, dove andammo il giorno seguente a delle piogge, forti piogge torrenziali che avevano causato l'esondazione del fiume Lambro, appunto. In qualche modo, quando entrammo in questo spazio, trovammo questa, come dire, sinfonia di gocce che cadevano dal soffitto, che in qualche modo ci raccontavano del cambiamento climatico, quindi di queste forti piogge torrenziali, ma anche dell'abbandono di questi edifici, quindi del cambiamento socio-economico rispetto a 50 anni fa, in cui invece la manifattura era ampiamente sviluppata nelle zone periurbane, e dei processi invece di sostituzione di questi edifici con nuovi edifici residenziali, che poi appunto si riconnettono allo sgombero delle baracche, eccetera eccetera. Quindi sì, in sintesi direi che per me è una questione politicamente rilevante complessificare le narrazioni e in qualche modo mettere in discussione la presunta oggettività delle mappature ufficiali. Vedo una cosa che andiamo a fare stando nei posti, camminandoci, ascoltandoli, guardandoli anche, ovviamente. Va bene, allora direi che possiamo lasciarci qua. Metto in chiusura, giusto per non lasciarci con parole ma con suoni, una traccia di Cusack del lavoro su Chernobyl e in questo caso della natura che si è in qualche modo ripresa o è rimasta Chernobyl. Grazie e alla prossima puntata.